Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. A pochi giorni dal processo, nuovamente accusati di associazione a delinquere. Accade a Latina, una provincia ormai, lo diciamo da tempo, mangiata dalle mafie, che qui hanno trovato un terreno ideale per un inedito laboratorio dove convivono Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Il 17 aprile all'alba, con l'ausilio di elicotteri e il supporto del servizio centrale operativo della polizia, gli agenti della squadra mobile di Latina hanno portato a termine l'operazione Caronte, arrestando 34 persone componenti delle due famiglie di origine rom. Omicidi, tentati omicidi, incendi, rapine, estorsioni, usura, spaccio di sostanze stupefacenti, sporto e cessione illegale di armi. Una valanga di reati commessi da quella che gli investigatori identificano come una vera e propria associazione a delinquere, composta da persone appartenenti ai presunti clan Ciarelli e Di Silvio. Gli accertamenti sono iniziati nel gennaio 2010 e hanno consentito a investigatori e inquirenti di accertare l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere. Esponenti della famiglia Ciarelli, secondo i PM, definivano le strategie criminali assumendo decisioni importanti, impartendo ordini agli altri appartenenti al gruppo, fissando le modalità operative e assegnando i singoli ruoli ai componenti dell'organizzazione. Due membri della famiglia, secondo i magistrati, decidevano inoltre l'erogazione di mutui con determinazione dei tassi usurari da applicare, imponendo talora quale modalità di erogazione dei prestiti, l'acquisto a credito di autovetture da parte dei mutuanti, decidendo sia le azioni e le intimidazioni necessarie per la riscossione dei crediti, che le azioni per indurre le vittime a non denunciare o a ritrattare le dichiarazioni già rese alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria. Buona vita e a domani.